501. Tinche alla sauté. Questo pesce, Tinca vulgaris, della famiglia dei ciprinoidi, ossia dei carpi, benché si trovi anche nei laghi e nei fiumi profondi, abita di preferenza, come ognuno sa, le acque stagnanti dei paduli. Ma ciò che ignorasi forse da molti è che esso, nonché il carpio, offrono un esempio della ruminazione fra i pesci. Il cibo arrivato nel ventricolo è rimandato nella faringe coi movimenti antiperistaltici e dai denti faringei speciali a quest'uso, ulteriormente sminuzzato e triturato. Prendete tinche grosse nel mercato di Firenze, vedonsi vive, e sono nella loro inferiorità fra i pesci delle migliori. Tagliate loro le pinne, la testa e la coda, apritele per la schiena, levatene la spina e le lische e dividetele in due parti per il lungo. Infarinatele, poi tuffatele nell'uovo frullato che avrete prima condito con sale e pepe. Involgetele nel pan grattato, ripetendo per due volte quest'ultima operazione. Cuocetele nella sauté col burro e servitele in tavola con spicchi di limone e con un contorno di funghi fritti alla loro stagione. Qui viene opportuno indicare il modo di togliere o attenuare il lezzo dei pesci di palude. Si gettano nell'acqua bollente, tenendoveli alcuni minuti finché la pelle comincia a screpolare, e si rinfrescano poi nell'acqua ghiaccia prima di cuocerli. Questa operazione è chiamata dai francesi limonée, da limon, fango.